Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati siamo alla fine di un viaggio. Nel vagone di prima classe del rapido Milano-Losanna è seduto un uomo non molto alto, con il corpo appesantito da un infantile amore per i dolci. Sull'uomo, improvvisamente colpito da un infarto, nei suoi ultimi istanti si fissa un'espressione serena. Fuori i vetri sono imbiancati dalla brina. È il 27 febbraio del 1960, fa freddo. Sono i giorni di carnevale, ma la vita questa volta sceglie di inscenare uno scherzo che non avrebbe dovuto accadere. Questa morte avviene troppo presto. È una morte che sceglie male il suo obiettivo, rende vane mille battaglie e mille impegni. Si dice che nell'ultimo istante la vita di ognuno di noi ci passi davanti in un lampo. Quella che passa davanti agli occhi azzurri di quest'uomo è straordinaria. È la vita di Adriano Olivetti. Adriano Olivetti. Ricorderò sempre la sua schiena china a raccogliere per le stanze i nostri documenti sparsi, le scarpe dei bambini, con gesti di bontà umile, pietosa e paziente. E aveva, quando scappammo da quella casa, il viso di quella volta che era venuto da noi a prendere Turati. Il viso trafelato, spaventato e felice di quando portava in salvo qualcuno. Sono le parole di Natalia Ginzburg dal romanzo Lessico familiare. Descrivono Adriano Olivetti la sera in cui aiuta la scrittrice a fuggire dopo che il marito, Leone Ginzburg, viene arrestato nel 1943. Adriano ha sposato qualche anno prima la sorella di Natalia, Paola Levi. Ma non è solo la parentela che lo fa precipitare nella casa romana dei Ginzburg. Lo anima soprattutto un bisogno di opporsi alle ingiustizie che l'avrebbe sempre accompagnato nella sua vita. Un desiderio che, secondo la figlia Laura, gli deriva dalla duplice educazione familiare. Se uno mette insieme l'educazione di tipo socialista che Adriano e i suoi fratelli hanno avuto dal padre, insieme con l'educazione di tipo calvinista valdese, quindi con questo rigore, con questo senso del dover far per gli altri, tipico di quella religione, di quel si può capire molto meglio come poi Adriano abbia operato in questo senso per tutta la vita. Il padre di Adriano Olivetti, Camillo, è un ebreo poco osservante, molto coinvolto nel socialismo e amico fedele di Filippo Turati, nonostante sia anche un brillante industriale, che nel 1908 fonda a Ivrea la prima fabbrica tutta italiana di macchine per scrivere. Di quell'epoca rimangono meravigliosi i manifesti pubblicitari, come quello di un Dante Alighieri tutto colorato di rosso che con un dito sottile indica la macchina per scrivere di maggior successo della ditta, la M1. La madre di Adriano, invece, Luisa Revel, viene da una famiglia di solide tradizioni protestanti valdesi. I valdesi, addirittura precedenti a San Francesco d'Assisi, nascono come un movimento che rifugge dai beni materiali, preferendo la povertà. La cultura valdese di Adriano Olivetti lo porta presto a cercare il modo di poter essere imprenditore, facendo anche gli interessi dei suoi operai, oltre che i propri. Quando succede alla guida dell'azienda del padre, nel 1933, aveva già provato la pesante esperienza del lavoro in fabbrica. Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani, nell'estate del 14, e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva e soprattutto non fissava la mia attenzione. La mente poteva vagare e si stancava. Le ore in fabbrica sembrano non passare mai. Il rumore è assordante. Adriano non riesce a concentrarsi. L'unico pensiero è scappare il prima possibile da lì, verso la sua bicicletta, verso la calda casa accogliente e il ricco pranzo che lo aspettano. Ma intorno a sé gli sguardi spenti degli altri operai rivelano un mondo diverso, un mondo senza luce, senza aspirazioni, fatto di orari sempre uguali, di gesti sempre uguali. Quando Adriano prende le redini dell'azienda, le sue idee sono già molto chiare e, come il padre, si sente ispirato da un socialismo di stampo riformista che vuole tentare di applicare all'azienda di famiglia. Ma problemi più pressanti coinvolgono tutto il paese. La dittatura fascista inizia a rivelarsi in tutta la sua violenza. Chi non è d'accordo con il sistema mussoliniano viene eliminato. Nel 24 si arriva al culmine, all'incredibile, all'inizio della fine. Il deputato Giacomo Matteotti viene rapito, pestato e infine ucciso con una coltellata. Adriano è sconvolto, tanto da promuovere subito una manifestazione a Ivrea. E il suo impegno lo porta nel 1926 a partecipare alla fuga dei principali esponenti socialisti, Filippo Turati, Sandro Pertini e Carlo Rosselli. Adriano è spaventato, ma risoluto, e si alterna con Ferruccio Parri, uno dei primi presidenti del Consiglio dei Ministri dell'Italia del dopoguerra, alla guida dell'automobile che porta Turati a Savona, dove l'aspetta un'imbarcazione per la Francia. Turati sta per abbandonare l'Italia. Olivetti e Parri hanno intenzione di restare. Ma in cosa si sta trasformando il loro paese? Quale futuro può esistere in un'Italia senza più libertà, dove la violenza viene utilizzata per reprimere ogni idea diversa dal fascismo? Quando tornerà la giustizia? Sono domande alle quali non riescono a dare una risposta. Devi aiutarmi a darmi forza se ho paura. Devi darmi il tuo coraggio e se cedo. Farmi vedere il tuo disprezzo. Ricorda sempre questa frase. Se corre gridamela in faccia. Questa frase è una bandiera. Baia ti molla. Baia ti molla. Adriano considera il socialismo imprescindibile da un'idea di giustizia, soprattutto sociale. Un pensiero alla base anche dell'impalcatura politica del suo compagno Sandro Pertini, intervistato quando era già il presidente più amato dagli italiani. Io sono un socialista tipo Turati, Filippo Turati, Claudio Treves, di questi uomini che adesso sono morti, sono scomparsi. Cioè sono per un socialismo che deve essere basato sulla libertà. Ecco. Le dico subito questo, per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile. Adriano, nei primi tempi di attività nell'impresa paterna, ha ancora un grande rispetto per gli assetti organizzativi del padre, ma qualcosa del suo pensiero si inizia a intravedere nelle prime innovazioni che apporta. Adriano guarda all'America, che già allora significa modernizzazione. Negli anni 20 Olivetti fa un lungo viaggio in America dove impara molto. Lì capisce che l'operaio è parte integrante dello sforzo produttivo e per questa ragione va messo nella condizione di poter lavorare nel migliore degli ambienti. Adriano capisce che qualsiasi progetto per una imprenditorialità diversa deve partire dalla fabbrica stessa. Le fabbriche a Ivrea erano costruite dai più importanti architetti di cristalli e di ferro. E questo per consentire, diceva Adriano, ai suoi operai di riuscire a vedere il cammino del sole, operai che erano nati, che erano stati estratti da un destino rurale e che così nell'ambito della fabbrica dovevano continuare a riuscire a vedere la bellezza dei luoghi circostanti. Luce, aria, spazi. C'è qualcosa di più lontano dall'idea di fabbrica fino ad allora? A nessuno è mai importato quali siano le condizioni in cui vive l'operaio, considerato uno strumento della produzione tale quale una chiave inglese. Da quando la bellezza viene riconosciuta non solo come una necessità, ma come un diritto, uno stimolo alla produttività? Bene, è l'inizio di una nuova era. È il 1937, quando Olivetti avvia con gli architetti Figini e Pollini un progetto per la costruzione di un quartiere residenziale per i suoi dipendenti. Ma è solo l'inizio. Nel 1939 i due architetti creano asili nido vicini alla fabbrica. Molto prima che qualsiasi sindacato faccia le sue rivendicazioni, Olivetti sente il bisogno di assicurare alle donne operaie l'assistenza dei loro figli in asili con personale specializzato. Maestre ed educatrici diplomate ci spiegano il metodo Olivetti. Quando il bambino ha 6 mesi e mezzo, la madre ha diritto di portarlo al nido e viene assistito completamente dal mattino alla sera. Alle mamme Olivetti assicura anche ben 9 mesi di maternità a stipendio pieno. Nel 2000 la legge prevederà solo 5 mesi a stipendio ridotto. Ma l'obiettivo principale di Adriano Olivetti è soprattutto quello di avvicinare l'operaio alla cultura. C'è una sezione culturale e una sezione scientifica e sociale e una sezione ricreativa. Tutte le tre sezioni comprendono oltre 50.000 volumi ormai. Si tratta in sostanza di educare i giovani alla comprensione dei valori della cultura. Olivetti spiega con orgoglio ai visitatori dell'epoca come funziona la biblioteca, che diventa parte essenziale della fabbrica. E cosa più incredibile, il lavoratore viene lasciato libero di usufruirne, con modalità che lasciano esterrefatti i visitatori condotti dall'allora responsabile del settore informatico, Francesco Baicchi. Questo metodo di organizzazione dava molta libertà anche di movimento alle persone, che potevano interrompere, fare soste durante la giornata di lavoro. Olivetti sperimenta nel microcosmo della sua fabbrica il mondo che vorrebbe. Forse il suo è un sentire utopico, ma l'utopia non ha mai alloggiato in luoghi così belli come le fabbriche della Olivetti di Ivrea. I luoghi della fabbrica di Ivrea vanno via via popolandosi anche di figure nuove, i cosiddetti intellettuali in fabbrica. Olivetti non ha paura di mischiare la gente, le competenze, i vissuti. Le menti migliori del tempo, come il critico Geno Pampaloni, gli scrittori Piero Volponi e Ottiero Ottieri, il giornalista Furio Colombo, il critico d'arte Bruno Zevi e tanti altri, passano per gli uffici di Ivrea come direttori del personale, collaboratori, consiglieri. Tanto che nel tempo la Olivetti viene definita l'Atene degli anni 50. Ma la maggior parte di loro viene anche spedita a trascorrere un periodo formativo insieme agli operai, perché Adriano vuole che i dirigenti imparino cosa vuol dire il buio del lunedì, l'esperienza dell'ingresso in fabbrica alle 6:30 del mattino. Olivetti decide di fornire un metodo scientifico anche ai colloqui di lavoro. Persino la grafologia diventa uno strumento di conoscenza, un'esperienza che ci racconta uno dei suoi dirigenti, il dottor Beltrami. Lui guardò con attenzione la firma e mi disse: lei è assunto. Poi dopo, in un'altra occasione, io gli chiesi: ma che cosa aveva quella scheda e quella firma? Dice: lei aveva la firma di un ottimista e pertanto io l'ho assunto, perché non mi piace imbarcare i pessimisti. Forse l'utopia maggiore di Adriano Olivetti è quella di credere che l'operaio debba essere motivato e valorizzato dal datore di lavoro, anche perché un operaio motivato può produrre in modo maggiore e migliore, e per motivare la sua gente assume anche psicologi del lavoro come il dottor Novara. Lui voleva che lo psicologo contribuisse a disegnare, a concepire con gli ingegneri in modo razionalmente umano il lavoro. Quindi avere un modello d'uomo reale, non il modello d'uomo robotico che inevitabilmente aveva il cosiddetto traidorismo, e quindi intervenire sulla modifica dell'organizzazione del lavoro. In fabbrica il modello della catena di montaggio viene soppiantato da quello delle isole, nelle quali un piccolo gruppo di operai monta, controlla e ripara dall'inizio alla fine un prodotto. Il momento storico in cui Olivetti si trova a operare è davvero complesso e stimolante. La guerra è appena conclusa quando Adriano è ormai capo indiscusso dell'azienda dopo la morte del padre Camillo nel 1943. La società che sta nascendo dalle macerie del conflitto non può che essere una società industriale, di ricostruzione, di progresso. Ma come abbiamo detto, nel progresso Olivetti vede soprattutto il germe della responsabilità, il senso di un'etica che si occupi degli altri e agisca in favore degli altri. Gli altri diventano un fine e non un mezzo. Fra le macerie, per Olivetti, sta nascendo una speranza. Da questa concezione nasce l'idea che il lavoratore abbia innanzitutto un futuro. Interessante l'esempio di Elserino Piol, che è entrato in Olivetti nel 1953 come semplice perito elettronico. A soli 28 anni viene nominato dirigente da Adriano, fino a diventare vicepresidente dell'Olivetti dall'88 al 1996. Piol, che oggi è un imprenditore di successo, spiega bene quale obiettivo avesse in mente Adriano. Ma si è posto il problema di come capitale e lavoro potessero coniugarsi insieme per far progredire la società, far progredire quello che chiamava la comunità. Olivetti non si ferma al suo sistema di welfare sociale. Lui è un imprenditore, capace di garantire l'elemento essenziale alla sua società, che non è altri che il profitto. Quel tipo di organizzazione del lavoro che dava così tanta libertà aveva anche portato a un incremento di produttività di quasi il 15%. È il ricordo di Francesco Baicchi, uno dei collaboratori di Olivetti. Il segreto del successo ha una ragione precisa. Le macchine per scrivere e le calcolatrici Olivetti diventano oggetto di culto non solo per la funzionalità, ma per un design curatissimo e innovativo. L'uso della tecnologia e il progresso tecnologico sono alla base del pensiero di Adriano, che è fermamente convinto che sta a tutti noi rendere il progresso accessibile al maggior numero di persone. Il design è l'aspetto migliore di questo progresso, perché il design riguarda tutta la vita, in ogni aspetto. È l'espressione in bellezza della tecnologia. La funzionalità può e deve essere bella. Adriano aveva l'ossessione della bellezza. Le cose fatte bene sarebbero state naturalmente belle e viceversa. Questo valeva per una macchina per scrivere che usciva da Ivrea, come per i progetti di riqualificazione ambientale e urbanistica a cui lavorava in modo infaticabile. Il sociologo Luciano Gallino ha più volte ricordato una battuta di Olivetti a questo proposito. Diceva che il compito della fabbrica era diffondere bellezza attorno a sé. Olivetti mette insieme una squadra di designer di altissimo livello, quando ancora la parola designer non era quasi conosciuta, e li mette a lavorare su macchine per ufficio, quando queste non sembravano meritare alcuno sforzo. Nasce così la prima macchina per scrivere portatile, la mitica Lettera 22, ad opera dell'architetto e designer Marcello Nizzoli. Grande comunicatore, oltre che architetto, Nizzoli firma altri progetti famosi, come il calcolatore DiviSum. Lettera 22 è stata promossa da una giuria di designer e dall'Istituto Tecnologico dell'Illinois al primo posto fra i 100 migliori prodotti di design realizzati negli ultimi 100 anni e viene conservata al Modern Museum of Art a New York. Immaginiamo un Adriano Olivetti felice alla notizia del riconoscimento. I suoi molti detrattori lo considerano un folle, un utopista poco legato alla realtà. Forse è un personaggio pericoloso, come ricorda il professor Novara, suo collaboratore. Adriano Olivetti era percepito come un imprenditore sovversivo. Il presidente della Confindustria di quegli anni, Andrea Costa, lo definì l'imprenditore rosso e invitò i confindustriali a boicottare i suoi prodotti. La Lettera 22 non è però l'unica macchina per scrivere Olivetti esposta al MoMA. Questa nuova macchina portatile prodotta dall'Olivetti è rossa fiammante e con un nome di donna. L'ha disegnata un giovane designer appena giunto in azienda che con l'incontro con Adriano cambierà la propria vita. Fra poco, a Destini Incrociati. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Destini incrociati. A Destini Crociati siamo a Ivrea, nei nuovi edifici voluti dall'imprenditore illuminato Adriano Olivetti, protagonista di uno dei più stupefacenti momenti innovatori che l'Italia abbia mai conosciuto, dove welfare e profitto per una volta si danno la mano e convivono felicemente per anni. In uno degli uffici abitati dalla nuova schiera di designer voluta da Olivetti, un architetto di origini austriache sta mettendo a punto un prototipo. Gira e rigira il modellino fra le mani. I suoi occhi dalle palpebre sono lenti, sembrano sognare. Ci sono scenari dietro a quegli occhi, possibilità, stili di vita. Tutti concetti che sta cercando fortemente di trasferire in quel modello. Il modellino diventa presto una macchina per scrivere con un nome di donna, Valentine. Sono passati alcuni anni da quando quel disegnatore e progettista si è presentato al cospetto di Adriano Olivetti, che subito lo ha voluto a dirigere il suo reparto tecnologicamente più avanzato. C'è una ragione nelle forme, nei colori, nelle superfici. Una ragione che spetta al designer far comprendere al consumatore finale. Veramente mi è rimasto da ragazzo questo piacere sensoriale. Cioè dei pesi, dei calori, delle temperature, delle luminosità, dei riflessi. Toccare le cose mi fa piacere. E c'è una ragione anche in Valentina. la nuova macchina per scrivere portatile della Olivetti. È rossa, lucida, vivace, sexy, completamente diversa da tutte le macchine per scrivere fino ad allora in commercio. È pensata per i giovani, per le vite dinamiche, gente che ha l'urgenza di comunicare e di farlo ovunque capita, soprattutto se capita fuori da un ufficio. Questo architetto, che al suo ingresso in Olivetti nel 1957 ha già 40 anni, capisce prima di molti altri che c'è un nuovo bisogno di informalità nell'affrontare il lavoro e si fa portatore di questo bisogno. Lo riempie di significato, anzi di materia, lo esprime. Il risultato è un oggetto come Valentin, che rompe tutti gli schemi fino a diventare oggetto d'arte prima ancora che di lavoro. Un miracolo di buon design, il miracolo di Ettore Sozzas. Ettore Sozzas. Il miracolo per Sozzas inizia però ancora prima, con il suo arrivo in Olivetti. È l'incontro fra queste due menti, l'imprenditore, che crede in una tecnologia bella, e il designer, che cerca di infondere un senso nella bellezza dei suoi oggetti, che crea una serie vasta di reazioni a catena che conquistano il mondo industriale di quel tempo. Nei 15 anni che Sozzas dedica all'Olivetti, fortemente voluto da Adriano, l'azienda diventa il punto di riferimento dell'industria illuminata. Sozzas traduce in oggetti i sogni di Adriano, che si confondono con i propri. Il significato sociale di quello che viene prodotto non sfugge a entrambi gli uomini, che si sentono responsabili dei loro oggetti di design in un mondo che spinge verso i prodotti di massa, il consumismo. Per Sozzas è la prosecuzione di una naturale vocazione nata molti anni addietro. 1917, Innsbruck, Tirolo. La prima guerra mondiale imperversa. Ettore Sozzas Junior nasce unico figlio di un padre che in lui vede la possibilità di realizzare i propri sogni, quelli di un figlio architetto. Il rispetto per il padre è tutto in quel Junior ostentato persino nel primo incontro con Adriano Olivetti. Ettore è consapevole dell'importanza di quel momento. La povertà ha prostrato la famiglia nei lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale e nei primi anni di pace. Ettore indossa sempre la stessa giacca, le stesse scarpe, non ha nulla. E l'architettura è invece un mestiere da ricchi. Ci vogliono soldi per avere una segretaria, un ufficio, un telefono dove rispondere alle chiamate dei clienti. Nonostante la povertà, Sozzas si sposa nel 1949 con la ragazza dei suoi sogni, con cui condivide un'esistenza senza mezzi, ma ricca intellettualmente. Quando mi sono sposato eravamo così poveri che dovevo fare 3 piani di scale e andare giù a prendere il carbone in cantina per far andare una stufa, perché questo posto non aveva né l'ascensore né il riscaldamento, e poi la mattina presto togliere la cenere, buttarla via e portare sul carbone. E però ero tutto contento. La moglie è una giovane originaria di Genova che a Torino si è appena laureata in filosofia. Ma la sua passione è la letteratura inglese, tanto che ha pubblicato per Einaudi la traduzione di un libro americano per l'epoca molto controverso, l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Il nome della fresca sposa di Ettore è Fernanda Pivano, detta Nanda. Fernanda è giovane, entusiasta, piena di energie. Con lei Ettore si avvicina all'America e alla generazione di scrittori beat amici della moglie: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac. Sono nomi oggi famosissimi, ma allora quasi sconosciuti o guardati con sospetto. Come Kerouac, che Fernanda intervista per la Rai in uno stato di completa ubriachezza. You are a damn little beautiful girl, you are Fernanda Pivano. I am, yes. You are a great intellectual girl of Milano. People no, hate you Milano. Because you're beautiful, that's why they hate you. You think so? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Bang. Bang. Hello, boom. Boom, right. I poeti amici di Fernanda sono la quintessenza dell'alternativo, persone che con grande forza cercano veramente una cultura diversa, che possa viaggiare se non al posto, almeno in parallelo con quella istituzionale. Anche in modo autodistruttivo, a costo della loro vita, come succede a Kerouac, che sceglie l'alcol per segnare la propria fine. What we are talking about, say, trying to cause big sensation. Talking about my generation. Questa ricerca di purezza, di non omologazione, segna profondamente Sozzas. Appassionato fotografo, con i suoi ritratti della moglie e degli amici beat, mostra un'America dai confini infiniti, segnata dal ketchup e dal sangue, dall'estraniamento e dal desiderio di ritrovarsi. Le foto di Ettore descrivono un mondo che non esiste più, forse. Un mondo di supereroi fragili, C'è Hemingway con un basco francese sul capo, Fernanda e Allen Ginsberg in costume al mare, Allen con una grande barba e il corpo bianco, inerme. I loro sono corpi passeggeri, destini segnati dall'infelicità. Ma c'è anche tanta allegria e intelligenza, e passione, e desiderio di andare oltre gli schemi. Ma ancora più degli amici Beat, Sozzas ama le lunghe giornate trascorse all'Olivetti a parlare di design con i suoi colleghi, e le serate, sempre in ufficio con un bicchiere di whisky davanti, il colletto della camicia e la cravatta allentati. La cravatta, sì, perché questa generazione di designer, di artisti assoluti, veste ancora in giacca e con la cravatta, che infila dentro la camicia in modo che non intralci la costruzione del modellino in polistirolo. Quelle serate in ufficio a parlare si trasformano in esperienze filosofiche, dove si cerca di comprendere il destino di queste macchine, il destino dell'industria e di chi ci lavora. Sozzas, come Olivetti, si pone innanzitutto questioni di ordine etico. Alla Olivetti, Sozzas sta per iniziare insieme ad Adriano una grande avventura. Su suggerimento di Enrico Fermi, l'Università Pisana avviò un progetto per realizzare un laboratorio scientifico. Cogliendo l'occasione, l'Olivetti si associò all'impresa e creò un centro proprio, autonomo, nella stessa Pisa. L'impresa di cui parla il dottor Filippazzi, all'epoca ricercatore dell'Università di Pisa, è la grande avventura dell'elettronica. Il consiglio di Fermi è di realizzare il primo computer italiano, che grazie a Olivetti viene realizzato molto prima di quelli dell'IBM, da un gruppo di giovanissimi progettisti, con a capo Mario Chu, un brillante informatico figlio di un ex diplomatico cinese in Vaticano. In quegli anni un calcolatore elettronico funziona ancora a transistor e a valvole invece che con i microscopici chip in silicio. Questo vuol dire che le macchine occupano uno spazio molto grande, anche un'intera stanza da riempire con armadi alti 2 metri. Per risolvere il problema viene chiamato Ettore Sozzas. Seguendo la filosofia olivettiana, per il designer il punto di partenza è quello di trovare un modo per trasformare queste orribili macchine in un'esperienza lavorativa il più possibile estetica. È il 1955 a Pisa e non girano molte auto. Figuriamoci i taxi. Sozzas alla stazione prende una carrozza, un mezzo che per secoli ha rappresentato la mobilità dell'uomo. Il passato, nel pieno della civiltà delle macchine e della modernità, lo sta trasportando verso il futuro, verso i nuovi orizzonti dell'uomo. Improvvisamente un interrogativo lo coglie come una rivelazione. Come fare per tenere dietro a qualcosa come l'elettronica che, come un giovane cavallo bizzoso, ha bisogno del genio umano per cavalcarlo e condurlo verso un obiettivo? La risposta, tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Pisa, è il 1955. Ettore Sozzas, designer e progettista industriale, è a bordo di una carrozza alla volta del primo incontro con i progettisti della divisione elettronica voluta da Adriano Olivetti. Il mondo ha già iniziato a viaggiare a 2 velocità ed Ettore Sozzas sta cercando di trovare un legame possibile fra quello ancora calmo, rappresentato dal cavallo attaccato alla carrozza, e il mondo modernissimo, totalizzante, forse pericoloso, del grande calcolatore elettronico che lo aspetta nei laboratori pisani. Il risultato di questi sforzi è il famoso Elea 9003, che Sozzas disegna nel 1957 e che vince l'ambitissimo premio Compasso d'Oro. Il primo progetto, secondo le parole di Sozzas, prevede delle scatole, delle specie di casse di alluminio che possano contenere questa elettronica, questa specie di divinità misteriosa. Una divinità oscura, che forse è meglio tenere a bada in sicure armature di metallo. Da questo primo studio si arriva a un calcolatore per il quale il designer cerca di abbassare gli usuali grandi armadi di 2 metri per riportarli a una dimensione più umana, più gestibile. Il risultato sono piccoli box colorati, lucine, profili integrati per evitare il caos. Il primo Elea 9003 viene acquistato dalla Marzotto. Il secondo va alla Monte dei Paschi di Siena, che tempo fa l'ha donato a una scuola di Bibbiena. Intanto Ettore Sozzas è sempre più conosciuto. Il suo nome inizia a circolare nell'ambiente, le sue soluzioni vengono apprezzate ovunque. Quando la grande avventura dell'informatica termina con la morte prematura di Adriano Olivetti e la divisione venduta alla General Electric, l'Italia, come spesso succede, perde un treno già lanciato verso il futuro. Ma non Sozzas, che ha imparato la lezione di Adriano. L'innovazione, la ricerca di un senso nelle cose, segna l'intero percorso creativo di Ettore Sozzas. In anticipo su tutti gli eventi politici della fine degli anni 60, vede nel design una forma di critica sociale. Insieme alla sempre crescente fama, si fa strada l'insofferenza verso il potere costituito. Ettore cerca un mondo parallelo, fatto di alterità, di poesia, sulla falsariga di quello che ha imparato dagli amici Beat. Il suo design diventa emancipatorio. Nel 60, poco dopo la morte di Olivetti, forse per ritrovare un suo centro dopo una scomparsa così triste, compie il suo primo viaggio in India, un'esperienza che lo segna profondamente. Non solo per la spiritualità del luogo, ma soprattutto per l'esplosione di colori, la lentezza dei tempi, la sollecitazione dei sensi. La vita è percepita sensorialmente prima che intellettualmente. È il 1972 a New York. Un momento che significa la consacrazione mondiale. Al MoMA va in scena una mostra epocale, Italy, The New Domestic Landscape. Gli americani scoprono improvvisamente che l'Italia non è fatta solo di rovine romane e palazzi rinascimentali. C'è un modernismo che preme, che produce, che crea nuovi arredi e nuovi ambienti per innescare diversi rituali del vivere. Fra i vari designer che vi partecipano, Ettore Sozzas propone la sua Micro Environment, una casa tutta grigia, quasi a disinnescare le regole delle abitazioni razionaliste, codificando nuovi rituali. Ho sempre bisogno di oggetti rituali, in un certo senso, che mi permettano di sapere che sto esistendo, che hanno un rapporto con me e io con loro molto profondo e molto, come dire, necessario. Mi aiutano a vivere. E se è vero che mi aiutano a vivere, vuol dire che mi mandano una qualche energia in qualche maniera. Le energie di Sozzas trovano nel 1981 un nuovo sbocco nel progetto Memphis. She says she knows me well, and I would send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen. The mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. In una lunga serata d'inverno, la canzone di Bob Dylan, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, continua a suonare sul piatto del giradischi, mentre sei dei più famosi designer italiani del momento stanno cercando di scardinare un mondo. Ettore Sozzas, Andrea Branzi, Aldo Cibici, Michele De Lucchi, Hans Hollein e Arata Isozaki vogliono mandare all'aria tutto un certo minimalismo anni 70, fatto solo di oggetti senza personalità e senza colori, per far posto a un approccio più rock delle cose. I primi progetti frutto del Memphis Group sono di assoluta rottura. Il pezzo più famoso è la libreria Carlton, coloratissima, metà fra un robot e un videogioco. Per Memphis si tratta di controcultura, di ribellione allo stato delle cose. Anche nella scelta dei materiali, come il laminato plastico, materiale ritenuto povero e proprio per questo amato da Sozzas. Del resto, Sozzas è stato l'inventore del radical design, fatto di fantasia senza limiti di ironia e divertimento. A lui sono debitori designer come Philip Stark e Nigel Coates. Le idee alla base del progetto Memphis sono solo la naturale continuazione di questo pensiero. Ma fattore più importante, Sozzas ha sempre cercato di andare contro la cultura codificata. Cioè, anche l'architettura ha, come dire, un destino etico. Infatti, ogni tanto penso che questi architetti che disegnano queste cose più che altro spettacolari per impaurire la gente o per convincere la gente della presenza lì del potere, qualunque tipo di potere, sono complici del disastro contemporaneo. L'immensa libertà e la considerazione della persona conosciute durante il lungo periodo trascorso in Olivetti hanno attecchito su Sozzas, insegnandogli il gusto per il lavoro responsabile, l'ascolto delle persone e delle loro esigenze, l'amore per il lavoro in comunità senza gerarchie. Sozzas, al contrario di Olivetti, vive i 50 anni più sconvolgenti per un disegnatore e progettista. Muore l'ultimo giorno del 2007, a 90 anni, con la sua arte. L'arte è un modo di vincere la paura. L'arte in generale è un modo di tentare di finire dentro dell'ignoto, di fermarlo questo ignoto in qualche maniera. Gli oggetti disegnati da Sozzas hanno il grande merito di uscire dal campo ristretto della loro funzionalità per evocare emozioni, sentimenti, per costruire un mondo migliore. Adriano Olivetti la pensava proprio così, quando con il suo volto serio e bonario al tempo stesso cercava nei volti delle persone che lavoravano per lui la conferma che tutti insieme stessero costruendo un futuro migliore. E le parole pronunciate da Sozzas in un'intervista americana gli sarebbero davvero piaciute. If you have good design, you will have a better society. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.